tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario anticlericale. Ricordiamo il sito giordanobrunomi.wordpress.com. Per le vostre mail notiziariogiordanobruno@gmail.com. Rilanciare l'anticlericalismo, avanti con l'ateismo, lotta dura per la laicità delle istituzioni. I misfatti clericali. Il Corriere della Sera del 3 dicembre prenderà i poveri per dare ai ricchi. In pratica prosegue il processo al Cardinal Becciu in Vaticano. Il test chiave degli affari, quel finanziere ci ha stregati. Gli interrogatori di Monsignor Perlasca. Comunque vada a finire il processo, rimane sempre il fatto che i milioni di euro provenienti soprattutto da paesi medio poveri come l'Italia, la Spagna, il Portogallo, l'America Latina, i paesi tradizionalmente cattolici, venivano reinvestiti nei paesi ricchi, no? Tra cui, come in questo caso, la Gran Bretagna. Leggiamo qualche breve passo dell'articolo. E Becciu, il potente cardinale ex dominus della segreteria, è l'imputato eccellente. Il Papa l'ha defenestrato a settembre 2020. Monsignor Perlasca racconta dei soldi dati alla sedicente agente segreta Cecilia Marogna. Io non sapevo neppure che fosse una donna. Nessuno sa niente, i milioni sono spariti. Truffa, estorsione, appropriazione indebita, riciclaggio, malversazioni, tangenti, soldi rubati, gli omissis, insomma tutta la merda clericale è venuta fuori. Parliamo un attimino di Rai Storia del 3 dicembre alle 6, mistificazioni sull'enciclica Non abbiamo bisogno, fatta da Pio XI negli anni 30. Nel mio libro Il razzismo nella storia della Chiesa ho enumerato proprio questa enciclica paragonandola alle posizioni di Camillo Berneri. Per esempio, Pio XI, a proposito del razzismo, accettato purché sottomesso alla teologia. Per Camillo Berneri, razza negata in toto, non esistono cervelli ariani e tedeschi. Pio XI non critica il pangermanismo, non critica il concetto razzista, non critica la teoria del suprematismo ariano, non presenta alcuna motivazione sull'inesistenza della razza ebraica, silenzio sulle invenzioni calunniose contro gli ebrei, non si contesta il concetto razziale di razze superiori e inferiori, si danno solo buoni consigli da un punto di vista diplomatico, In realtà è un'enciclica quasi filo razzista, altro che antirazzista, come è stata presentata a Rai Storia il 3 dicembre alle 6 del mattino. Da Sicilia Libertaria, al di qua, coraggio ragazzi, scritta da Fra Dubbioso, e si parla appunto del schiavo sessuale del sacerdote del legionario di Cristo, padre Vladimir. I crimini dei legionari di Cristo, estorsione, favoreggiamento, setta clerico-fascista. Su Il Giorno Quotidiano Nazionale del 26 novembre, l'estradizione non arriva, libero l'uomo di Pinochet. Arrestato in Italia, il tedesco è tornato a casa. Questo per un evidente favoritismo fatto dalla Polizia di Stato. Poi si parla di Emanuela Orlandi e il giallo della trattativa. Ricordiamo che lei era la figlia del postino del Vaticano. Diffamazione contro i Valdesi. Sul manifesto del 2 dicembre 2021. Medioevo inquisitoriale, manoscritti, protagonisti e paradossi. si parla appunto di questi eretici arrestati, sottoposti a tortura, delle diffamazioni, e lì si inventava questa storia che viaggiassero di notte sulle scope, tutta invenzione a scopo diffamatorio diffuse dai cattolici, eresie e stregonerie. Polonia. Contro l'aborto ci mancava la legge di Theo Kohn, respinta. Il manifesto del 2 dicembre prevede che per chi pratica l'aborto persino l'ergastolo in circostanze aggravanti. Proteste anche per la proposta dei clericali di un istituto della famiglia e della demografia. Dalla prealpina di Varese veniamo a sapere che nel comune di Arconate c'era questa fanatica religiosa, chiamata nell'articolo stalker religiosa, condannata a 1 anno e 9 mesi. Aspergeva acqua santa, disegnava croci dappertutto e picchiava anche i bambini. È saltato fuori nel processo che i bambini venivano picchiati da questa fanatica cattolica, sale e acqua santa. Il clerico fascismo, da mie ricerche su internet, su comune.volpara.pv.it, clerico fascismo. Effettivamente la chiesa di Volpara è ancora dipinto il fascistone Farinacci, noto razzista, ras di Cremona, già segretario del Partito Nazionale Fascista. Il clerico fascismo. Clero degenerato. Su treccani.it sono andato a vedere la voce di Giovanni Battista Capranica, che era un prete degenerato nominato vescovo per meriti nepotistici nel 1400 e a un certo punto fu assassinato a Fermo, in provincia di Ancona. Giovanni Aceto, uno dei consultori del comune, accusò il Capranica di pessima condotta di vita, lascivia, perversione, lussuria, arroganza, irosità, simonia, spoliazione delle chiese, sodomia ed inoltre levitate sensus, malignitate animi et inonesta conversazione. Insomma, adulterio, omicidio, eccetera, ma alla fine fu ammazzato a Fermo nel palazzo del vescovo il giorno delle ceneri, cadde vittima degli odi e dei rancori locali, fu ucciso e buttato dalla finestra del suo palazzo per questione di donne, si disse, vendetta di famiglia, sorpreso con una donna, ferimento e uccisione, eccetera eccetera. Ci può poi la vendetta dei suoi familiari contro gli ambasciatori di Fermo a Roma che dovevano giustificare il loro assassinio. Massacri made in USA. Si parla anche dei massacri avvenuti in Brasile con la complicità della Chiesa, anche se molti preti di sinistra furono vittime degli squadroni della morte negli anni 60-70. Conferma indirettamente la connivenza degli Stati Uniti nella Shoah e a causa dei noti mancati bombardamenti, il totale cinismo degli Stati Uniti, sia loro che gli inglesi sapevano benissimo delle deportazioni degli ebrei e sapevano benissimo che avveniva ad Auschwitz, sapevano benissimo quali erano le linee ferroviarie, ma non le bombardarono. Poi contro la sindone sono usciti, pubblicati sul Quotidiano Nazionale del 26 novembre, nuovi studi che confermano la validità di questo metodo di datazione. Questo studio dimostra come, utilizzando i più recenti progressi nel metodo del radiocarbonio, sia possibile ridurre al minimo la quantità di materiale da campionare. Quindi si possono prendere di nuovo dei pezzettini del telo della sindone, in modo da dimostrare anche ai più fanatici che la sindone è un falso medievale, in quanto il telo è stato preparato nel Medioevo. Sulla rivista Left, siamo ancora nella società oppressiva degli anni 60, la difficile scelta di interrompere una gravidanza non voluta, i rischi dell'aborto illegale, il moralismo di una società misogina. Il film Le Benemen di Audrey Divan racconta il dramma di una ragazza ventenne eccetera, eccetera. Insomma, negli USA è a rischio la legge federale sull'aborto. Poi, sempre da Sicilia Libertaria, che ho citato prima, cremazione, le ragioni della civiltà contro la paura più grande di Libero Siciliano. No alla concezione della morte propinata dall'indottrinamento cattolico. Il Dio dei cristiani è un Dio dei vivi, un Dio proteso a governare il grigio, operazione da sempre funzionale all'assoggettamento degli esseri umani, ai poteri temporali, siano essi religiosi o laici. Uno dei modi per controllare le pecore è stato quello di incutere la paura della morte, una paura coltivata con metodi terroristici, il terrorismo clericale. Dal Corriere della Sera del 4 dicembre, Mario, che aspetta il suicidio assistito, ogni giorno in più è una tortura. Le forze clericali cercano di nuovo di ostacolare la sua scelta di porre vita alla sua vita. Suicidio assistito, testo di mediazione, ma la destra dice no. Il manifesto del 3 dicembre delle commissioni affari sociali e giustizia ha approvato il cuore del progetto di legge, sbilanciato sulle posizioni di Lega e Fratelli d'Italia, che votano poi contro. È tutto una manovra per boicottare tutto. Un brutto segnale viene anche dal ministro della Salute, Speranza, che ha risposto a un'interrogazione di Riccardo Magi, Più Europa, riguardante l'ostacolo posto dalla Regione Marche all'iter di suicidio assistito. Posso assicurare che il Ministero continuerà il suo lavoro di vigilanza e monitoraggio, però secondo l'associazione Coscione avrebbe il dovere di intervenire. Abbiamo poi le disgrazie clericali. Strage di bambini in Nigeria, erano diretti a una cerimonia religiosa. Dove era Dio? Dio non esiste. Dove erano gli angeli custodi? Non esistono, ovviamente sono un'invenzione per i bambini. Dove era la Madonna? Ovviamente chi è morto da 2000 anni non può fare niente per noi. E quindi è avvenuta questa ennesima tragedia con morte di molti bambini e bambini annegati in questo piccolo traghetto. Concludiamo con il piccolo dizionario di terminologia atea anticlericale. Impostura gigantesca fu quella praticata dalla Santa Romana Inquisizione, da Gianni Grana, opera citata, volume 3. Incontinente presunzione, il cattolicesimo si insuperbisce, riducendo solo a barlumi di verità i dogmi delle altre religioni. Industria multinazionale delle religioni, fu inventata ormai da vari secoli e continua a ingannare il popolo ingenuo privo di logica e raziocinio. Infantilizzazione dell'uomo, è prodotta dalla Chiesa Cattolica con tutte le sue superstizioni e chimere. Benissimo, saluti anticlericali a tutti, alla prossima puntata.